Ed eccoci qua, un nuovo pomeriggio insieme. Siamo qui all'interno di Bella Vita con Rosy. Vi auguro un buon pomeriggio. Un buon pomeriggio molto molto molto freddo, direi. Queste temperature che non vogliono più risalire. E noi che siamo costretti a soffrire questo freddo, ma soffriamo in compagnia, lo soffriamo con tanta bella musica qui appunto in diretta su CRM Happy Radio all'interno di Bella Vita in compagnia di Rosy. E in questo giorno di martedì 7 febbraio ovviamente noi vogliamo sempre e comunque cominciare con quella bella musica che ci accompagna, musica energetica proprio per riscaldarci. E a voi! Possiamo fare altro che riscaldarci ascoltando la musica bella qui all'interno di Bella Vita in compagnia di Rosy. Ovviamente potete fare le vostre richieste che ci giungeranno qui in diretta e ovviamente siamo pronti, sono pronta io per accontentarle. Allora potete benissimo scriverci tramite Facebook, chattare con me, oppure potete inviarci un messaggio direttamente dal nostro sito che è il www.crmpiradio.it. Lì potete anche richiedere la vostra canzone preferita, oppure alla vecchia maniera potete chiamare lo 0921 92 32 92, oppure mandare un messaggino al 335 56 37 251. E io sono pronta ad accontentarvi. E nonostante la Sicilia sia colpita da questo freddo così tanto atroce, perché ovviamente noi non ci siamo abituati, quindi lo soffriamo, Sicilia piena anche di neve, in montagna tanta neve, ora ce ne andiamo tutti quanti a sciare, vogliamo ascoltare e vogliamo elogiare lo stesso la nostra Sicilia innevata, Sicilia Bedda e Tinturia. Sicilia Bedda, Sicilia Bedda, voglio giocare con la fonda. Sicilia bella, ma manca sai correre in maneta. L'occhio di miria ci hanno sempre a mangiare, qua lato terra volo sacco so cari. Gli alliscia che alle case fanno ragione, che sopra i tempi fanno case e casone. Sicilia bella, Sicilia bella, preda di fuoco e di soffarella. Sicilia bella, Sicilia bella, ci ha sento cuore in uscita e moretta. Non posso io pensare che sopra lo scritto sarà la grande uva che lo mano scurerà, che tutti i pesci peschere da pazzallare e l'occhi fora. Aspetto solo che qualcuno chiude un mora. Sicilia bella, come un sole, come una stella. Sicilia bella, Sicilia bella, gli altri che andiamo con tante stornetta. Proverbi frasi con termine menagli, gli hanno parole come tante tenagli. Capi, capi, che gente vuole, io volesse capire. Sicilia bella, fammi da stare a luce nella terra. Sicilia bella, Sicilia bella, spacca le mie dammi da un'altra pietra. Questo finale fa un voto ricoraggiamo gente. Da sarà usa fino a casa di Giacenta volano da Palazzolo, Solarino e Pachino. Avevo un cuore di speranza chinuchino. Sicilia bella, ovviamente noi elogiamo la nostra Sicilia, siamo fieri di essere siciliani, nonostante non siamo abituati a questo freddo. E ringraziamo subito la nostra amica Maria Laura che già ha fatto la sua prima richiesta. Vuole ascoltare Love on Top di Beyoncé. Eccola qui. Bring the beat in. Stars all the way from here. Can't you see the glow on the window pane? I can feel the sun whenever you're near. Every time you touch me, I just melt away. Now everybody. La nostra radioascoltatrice Maria Laura che ha richiesto direttamente Beyoncé Love on Top. Eccola qui. E a proposito di meteo, a proposito di brutto tempo, a proposito di freddo, sapete, i meteorologi sudafricani rischiano la prigione e pesantissime multe se sbaglieranno le previsioni del tempo. in seguito ad una legge recentemente entrata in vigore. Le sanzioni saranno pesanti soprattutto nel caso che vengano annunciati eventi particolarmente estremi, quali siccità o alluvioni, che non si verificassero. La pena arriva fino a 5 anni di reclusione e 500.000 euro di multa, che potrebbero anche essere raddoppiati qualora l'errore nella previsione non fosse il primo. Lo scopo della severa legge è quello di prevenire episodi di panico che potrebbero portare a danni alle persone o all'economia. Sembrerebbe infatti che sia capitato che qualche meteorologo abbia esagerato nelle previsioni, gettando nel panico la popolazione, specie anche nei paesi un po' più piccolini. Ora non sarà più possibile, e per lanciare un allarme meteo sarà necessario un'autorizzazione scritta direttamente del Weather Service Bureau nazionale. Beh, forse è anche una cosa positiva questa, almeno non avremo più, là in Sudafrica non avranno più di questi problemi di panico, che poi panico inutile, come si suol dire. E allora noi continuiamo sempre ad ascoltare la bella musica e ascoltiamo l'ultima canzone estratta dall'album di Laura Pausini, l'album che si chiama Inedito, uscito proprio l'11-11 del 2011, Bastava. Un sorriso di ritorno per rispondere a un sorriso. Bastava uno spazio condiviso, ma nessun altare d'oro. Bastava nella stanza di un albergo d'Europa. Si potrebbe andare avanti a parlare, o si gioca, o scambiamoci uno schiaffo di pace. Vince il primo che si arrende, si offende, lo dice. Come ci siamo arrivati a volerci così tanto male, non so. Come ci siamo permessi di dirci che ognuno fa quello che può. Una camminata in centro in un pomeriggio bianco. Bastava prevedere il tuo fastidio, fare i conti sopra l'odio. Bastava fare a meno delle buone maniere che confondono e rubano spazio e spessore, e buttarci sotto l'acqua gelata e accettare che davvero è acqua passata. Come ci siamo arrivati a volerci così tanto male, non so. Come ci siamo permessi di dirci che ognuno fa quello che può. Anche se poco, quello che capisci dopo. Bastava masticare le parole, rimanere in verticale. Bastava, questa notte mi apre gli occhi e ci guarda, vede povere carezze di guerra. Questa notte mi apre gli occhi e ci guarda, vede lacrime d'argento cadere per terra. Come ci siamo arrivati a volerci così tanto male, non so. Come ci siamo permessi di dirci che ognuno fa quello che può. Você é realmente não sei o que eu fiz pra merecer você, porque ninguém dava nada por mim, quem dava eu não dava por mim. più a te di segreti te di me. Oh mio corazon già stava acostumato ma solidão, quem diria que ao meu lado você iria ficar? Você veio pra ficar, você que me faz feliz, você que me faz cantar assim. O meu coração já estava aposentado. Temo uma ilusão, tinha sido maltratado, tudo se transformou. Agora você chegou, você que me faz feliz, você que me faz cantar assim. O meu coração já estava por sentar. Tinha sido maltratado, tudo se transformou. Agora você chegou, você que me faz feliz, você que me faz cantar assim. Ainda bem que agora encontrei você. Eu realmente não sei o que eu fiz pra merecer você. Riconoscendo questa voce in sottofondo che ancora canta, stiamo parlando proprio di Mina, una delle cantanti più amate italiane di tutti i tempi. D'altronde dietro le sue spalle ha tanti e tanti anni di carriera ed è ritornata in tutte le radio a farsi sentire. Noi siamo lieti di questo, ma ovviamente noi, essendo in diretta qui in radio su CRM Happy Radio all'interno di Bella Vita in compagnia di Rosy, non possiamo fare altro che ascoltare ancora tanta bella musica. Ne abbiamo di tempo, ne abbiamo, e allora continuiamo adesso, movimentiamoci un po', tutta per voi. Shut up, them things that couples doing in love, you know, walks on the beach and stuff, you know, things that lovers say and do. I love you, boo, I love you too. I miss you a lot, I miss you even more. That's why I flew you out when we was on tour. But then something got out of hand. You start yelling when I would break plans, even though I had legitimate reasons. Bullshit. You know I have to make them dividends. Bullshit. How could you trust with private eyes, girl? That's why you don't believe my lies and quit the sex. Shut up, just shut up, shut up, shut up, just shut up, shut up. We try. fast. Love is progress if you could make it last. Why is it that you just lose control every time you agree on taking it slow? So why is it got to be so damn tough? Cause fools and lust could never get enough of love. Showing the love that you be giving, changing up your living for a loving transition. Flawless submission trying to get you to listen. Humanity each other has become our tradition. You yell, I yell, everybody yells. Got neighbors across the street saying, who the hell, what the hell's going down? Too much of the bickering, killer with the sound and shut up. We try to take it slow, but we're still losing control. And we try to make it work, but it still ends up the worst. And I'm crazy. You stop trying. I never been a quitter, but I do deserve better. Believe me, I will do bad. Let's pick up the bed, start this new play. Why? Cause it's the same old routine. And then next week I hear them scream. Girl, I know you're tired of the thing to say. You're damn right, cause I heard them lame damn excuses just yesterday. That was a different thing. No, it ain't. That was a different thing. No, it ain't. That was a different thing. It was the same damn thing. Same as excuses, boy, you use. Viene soltanto voglia di muoversi, di battere quei piedi, di camminare, di correre, pur di riscaldarsi. In qualche modo bisogna riscaldarsi e noi ovviamente lo facciamo ballando. Sì, sì, dai, scateniamoci un pochettino. E siamo qui in diretta all'interno di Bella Vita con CRM, su CRM Piredio. E vi ricordo che potete fare le vostre richieste chiamando lo 0921 92 32 92, proprio come hanno fatto i nostri amici Luca, Richard e Alessandro, che hanno richiesto questa canzone. Ovviamente io sono lieta di accontentarli. Ci chiamano da Sant'Ambrogio, quindi salutiamo Sant'Ambrogio, tutto questo piccolo paesino. E quindi Richard, Luca, Alessandro, questa canzone è per voi. Stiamo parlando di Jennifer Lopez, Papi. llégale, llégale. Suéltate el pelo, levántate, cae, asegúralo. Ve con toda, si él es lo máximo. Azota baldosa, baila para tu papi. Salutiamo ancora Luca, Alessandro e Richard, i ragazzi che hanno richiesto proprio questa canzone, Jennifer Lopez, Papi, bellissima. Bene, sapete che per ora sta andando molto di moda l'iPhone, avere l'iPhone, possedere l'iPhone, bello, comodo perché ha tante qualità, si può andare su internet, Facebook, la qualsiasi puoi trovare. Ma l'iPhone sarà un oggetto bello e di moda, però la sua bellezza sembrerebbe durare poco. Il 42% degli iPhone infatti sarebbe utilizzato nonostante abbia subito danni allo schermo. Almeno questo è quel che succede nel Regno Unito, che sembrano avere un rapporto difficile con i telefoni, dato che molti cellulari vanno persi ogni anno nei water inglesi. La ragione del fatto che gli iPhone vengono usati nonostante danni allo schermo sta sicuramente nel costo del telefono e talvolta nei contratti che dividono il pagamento in più anni. Una parte dei proprietari però rinuncia alla riparazione nonostante potrebbe richiedere un intervento gratuito o a costo ridotto grazie a quelle polizze assicurative incluse nel contratto telefonico per non separarsi dal telefono appunto. La maggior parte di questi incidenti capitano proprio ai neopossessori di iPhone, con la maggior parte degli incidenti poi che accadono quando il telefono tra l'altro ha meno di 3 mesi, quindi vedete un po' la rabbia che può venire. Lo dico io che il telefono migliore è quello vecchio standard, che lo puoi sbattere ovunque. E noi continuiamo ad ascoltare la bella musica, musica di Bella Vita in diretta su CRM Happy Radio. Un'ora, un giorno o poco più, per quanto ancora ci sarai tu a volermi male di un male che fa solo male. Ma non ho perso l'onestà e non posso dirti che passerà, tenerti stretto quando in fondo sarebbe un inganno. E non vedi che sto piangendo, chi se ne accorge non sei tu, tu sei troppo distratto. Un'ora, un giorno o poco più, dicevi sempre per sempre, sì però, guarda cosa è rimasto adesso, che niente è lo stesso. Se non fa rumore l'anima e quando segui davanti non si illumina, è perché non ne sento più il calore, non ne vedo il colore. E non vedi che sto piangendo, se ne accorge non sei tu, nel tuo sguardo distratto. Che sto fingendo e non mi guardi già più, col tuo fare distratto. Più confuso, non avresti voluto vedermi scivolare via, fuori dalle tue mani, che fantasia, fuori dalla tua vita, ma mi hai preso soltanto in giro. Ora vedi che sto ridendo e chi mi guarda non girava al mondo se non c'eri tu. E non volermi male adesso se non ti riconosco. Greetings, loved ones. Let's take a journey. I know a place where the grass is really greener. Warm, wet and wild. There must be something in the water. Sipping gin juice, laying underneath the palm trees. Okay. And done. Insieme a Snoop Dogg, California Girls, bellissima canzone movimentata, abbiamo detto appunto che con questo freddo non possiamo fare altro che ascoltare musica movimentata proprio per cercare in qualche modo di riscaldarci. È sempre difficile, bisogna per forza una stufa che mi manca, non ce l'ho, la vorrei avere. Ma continuiamo ad ascoltare la musica, è arrivato il momento di ascoltare una nuovissima canzone, Antonello Venditti, Forever, per sempre. Cosa succede per sempre? L'amore per sempre, sicuramente. Antonello Venditti. Lo sguardo trova sempre quello che cerca il cuore, guardando dentro me, ritrovo il tuo dolore. Io ti amerò per sempre. dicevi allora. Ricordo le tue labbra, ridevano all'aurora. Quanto tempo fa, tu lo diresti ancora, ora che la nostra vita va così. Voglio solo te, io lo voglio ancora, ora che il silenzio scende su di noi. Forever. Io ti amerò per sempre, sarò come vuoi tu. Cercherò per sempre, sarò come vuoi tu. E intanto fuori cambia, c'è odore di tempesta, suoni in lontananza, la vita è quel che resta. Tu ti stringevi a me, stringimi più forte, che questa notte finirà. Voglio solo te, io lo voglio ancora, ora che il silenzio scende su di noi. Io ti amerò per sempre, sarò come vuoi tu. Che abbiamo proprio pensato bene, Forever, Antonello Venditti, questo suo per sempre lo ne parlava proprio a proposito dell'amore. E Antonello Venditti è una delle dei cantanti italiani più importanti, che ha cominciato bene bene proprio negli anni 70 e non smette, nonostante tutto, nonostante siano passati tanti anni, non smette proprio di raccontarci, di parlarci dell'amore, quell'amore tenero, dolce e passionale che appunto da sempre ha caratterizzato i suoi brani. È dal 3 febbraio, quindi da pochissimi giorni, è in rotazione radiofonica questo nuovo singolo Forever, appunto, chissà, in febbraio proprio il mese dell'amore, San Valentino, ed è l'album estratto, cioè, la calzin il singolo estratto dall'album Unica. E questo tour lui comincerà adesso con i suoi tour e partirà da Roma l'8 marzo, proprio la festa delle donne, e proseguirà fino a fine aprile per poi concludersi con la data estiva del 9 luglio all'Arena di Verona. Poi d'altronde quale luogo migliore per il trionfo della canzone d'amore se non proprio Verona, una delle città italiane degli innamorati proprio per eccellenza. Quindi bello, una bella cosa. E noi continuiamo ad ascoltare la musica, musica qui in diretta su CRM P Radio all'interno di Bella Vita. Bruno Mars, Marry You. It's a beautiful night, we're looking for something dumb to do. Hey baby, is it the look in your eyes, or is it this dancing juice? Who cares, baby? I think I wanna marry you. Well, I know this little chapel to marry you? Is it the look in your eyes? Or is it this dancing juice? Who cares, baby? I think I wanna marry you. Resterò seduto ad aspettare, non mi importa delle ore, non mi importa di sembrare un deficiente, io che fondamentalmente non ho forse mai aspettato niente. Fuggo dal bisogno di scappare, resto qui e ci voglio stare, non mi importa del dolore questa volta, se per caso fosse amore me lo voglio meritare. Strano come spesso basti un viaggio, pochi grammi di coraggio, un vestito un po' più corto e poi lo sguardo di uno fiera di passaggio. Strano ma non credo che sia peggio, non credo che sia peggio. Ci voleva lei, ci voleva lei, ci voleva lei, che ti portasse fino a qui, che fossi come sei, perché fossi così. Ci voleva sì, ci voleva lui, ci voleva lui, ci voleva lui, perché ritrovassi me, perché forse in fondo è vero che per essere capaci di vedere cosa siamo, dobbiamo allontanarci e poi guardarci da lontano, da un aeroplano. Ci sono isole che andrebbero evitate, soprattutto quando è estate, pochi passi sul pontile è già finire intrappolato, come un pesce nella rete, condividerne la sede. Certe isole col sole al posto giusto, con un vento sempre fresco che si insinua malizioso e disonesto e piano piano si confonde col rumore fastidioso e sempre uguale delle onde, delle onde. Ci voleva lei, ci voleva lei, ci voleva lei, che ti portasse fino a qui, perché fossi come sei, perché fossi così. E ci voleva sì, e ci voleva sì. Non come spesso basta un viaggio, pochi grammi di coraggio, un vestito un po' più corto e poi lo sguardo. Strano ma non credo che sia peggio, non credo che sia peggio. Resterò seduto ad aspettare, non mi importa delle ore, non mi importa di sembrare un deficiente, io fondamentalmente non ho forse mai aspettato niente. Dal bisogno di scappare, resto qui e ci voglio stare, non mi importa del dolore, questa volta se per caso fosse amore, me lo voglio meritare. We roll. ho detto io che dovevamo ascoltare tante canzoni movimentate proprio per riscaldarci. Stiamo morendo di freddo, fuori piove, sembra che nevica, e noi ascoltiamo questa musica, musica movimentata, che è proprio Luca da Sant'Ambrogio ci ha richiesto. Abbiamo ascoltato infatti Sasha Lopez insieme a Bruno, All My People, bellissima canzone, abbiamo ballato, però ora ogni tanto tocca anche ascoltare qualche canzoncina più tranquilla, proprio per accontentare tutti i radioascoltatori, quelli che amano il rock, il pop, la musica leggera. Questa è la nuova canzone di Alessandra Amoroso, Ti aspetto. Ma non ti accorgi che non serve a niente far finta che non sia successo niente. 10 minuti per averti ancora mi stringe non sa dire una parola. Ma forse in fondo è meglio non parlarne, dimenticare un giorno e non parlarne di questo nuovo amore complicato, così importante che sia appena nato. Poi mi sorridi, mi piaci tanto come muovi la bocca. Poi mi confondi con la tua ruvida dolcezza. Appuntamento preso col destino, mi avevi lì proprio vicino vicino. In un secondo la rivoluzione, e dopo un attimo era tutto chiaro. Era già l'ore, amore da non respirare, amore che ti scappa di mano e non si riesce a farlo andare piano, e che mi fa sperare che tu sia su questo treno. Ma se non ci sei ti aspetto. Vorrei riuscire a chiudere la porta, cominciare a chiudere la porta di questo nostro amore siderato, che scava in fondo anche se appena nato. Poi ti nascondi, ma solo poco così posso trovarti. Poi mi confondi con la tua stupida amarezza. Appuntamento preso col destino, mi avevi lì proprio vicino vicino. Di Alessandra Amoroso, bellissima questa nuova canzone, nuovo singolo, emozionante, una ballata firmata da Federico Camba e Daniele Coro con arrangiamenti di Celso Valli. Questo pezzo è stato tra l'altro presentato il mese scorso circa ad Amici, ed è un appuntamento preso col destino, proprio come dice lei nella canzone. Alessandra Amoroso, questa giovane interprete venuta fuori dal talent show di Amici, come sappiamo bene, canta proprio di un sentimento giovane ma già profondo e travolgente, proprio come dice infatti nella sua canzone, un nuovo amore complicato, così importante anche se è appena nato, un amore da non respirare, che ti scappa di mano e che non riesci nemmeno a farlo andare piano. E questo amore quindi complicato, fatto di silenzi, sorrisi e di una ruvida dolcezza, come dice appunto nella canzone, è una passione che esplode anche a livello musicale ed un intenso ed emozionante refrain impreziosito da una straordinaria esecuzione d'archi. E ovviamente, come tutti gli altri suoi brani, sicuramente questo avrà anche tantissimo successo. Noi glielo auguriamo, d'altronde, perché Alessandra Amoroso merita davvero, una bellissima e bravissima cantante italiana. E noi continuiamo con la musica di Bella Vita con Rosy all'interno di CRM Happy Radio in diretta. David Guetta, Without You. I can't win, I can't reign, I will never win this game without you, without you. Bellissima canzone che può avere il suo lato romantico, ovviamente. E a proposito, prima stavamo parlando di amici, se vi ricordate. A proposito di amici, l'ultimo avvenimento che è accaduto in quel di Amici a Cinecittà è stata proprio la sconfitta della cantante, nonché peraltro siciliana, Lidia, che appunto esce di scena lasciando il posto a Stefano dopo aver sostenuto una sfida molto molto agguerrita. E il giudice, che era il giornalista Mangiarotti, ha decretato la vittoria di Stefano e quindi la fuoriuscita dal gioco, chiamiamolo gioco, da parte di Lidia. Hanno sostenuto una bellissima sfida, ovviamente i compagni di avventura si sono divisi tra chi tifava ovviamente Lidia e chi ammetteva il fatto che potesse essere stato bravo Stefano, che è un cantautore che ha proposto nonostante tutto anche due suoi inediti, Rosso e Compromesso. Ma ovviamente Lidia se ne va a testa alta e l'ultimo saluto ovviamente lo rivolge al suo caro amato Nunzio, ballerino della stessa squadra appunto dei Verdi. E va bene, pazienza, c'è chi vince e c'è chi perde. A proposito di vittoria, adesso noi vinciamo il freddo ballando una canzone al ritmo portoghese. È una richiesta, la fa Alessandro, che salutiamo. Michel Teló, Ai Se Eu Te Pego. Nossa.

all'interno di Bella Vita in compagnia di Rosy in diretta su CRM Happy Radio. Stasera vi ricordate che avete un appuntamento importante? Sì, sicuramente ve lo ricorderete. Stasera c'è l'ultima puntata di Il tredicesimo apostolo, il prescelto, la serie che vede protagonisti Claudio Gioè e Claudia Pandolfi, che sta avendo tantissimo successo, che appunto tiene incollati milioni e milioni di italiani. E stasera quest'ultimo appuntamento i protagonisti concluderanno il loro viaggio alla scoperta di loro stessi e ovviamente tutte le domande che sono finora rimaste senza una risposta, ovviamente l'ultima puntata le darà e saremo ovviamente tutti quanti curiosi di sapere come andrà a finire tra Gabriel e Claudia. Noi ascoltiamo la musica. Sempre ostinatamente l'ottimismo serve, è quella spinta in più. Se un volto si accende è un fatto importante. Il mondo si arrende se sorridi tu. Abbasso i malinconici, il pianto dei nostalgici, i pessimisti cronici e chi non si ama più. La vita cambia e c'è chi cambia, tira fuori la grinta, un bel respiro tu. Rispondi a quei problemi con la serenità, la forza di un sorriso, il tuo segreto è qua. Più slancio ai desideri, ai sentimenti veri, sali fin dove arrivi, ma non fermarti là, risparmiati una lacrima per la felicità. Sorridere sempre, coraggiosamente, bisogna avere fede, pazienza ed ironia. Si affannano gli uomini, si arrabbiano e disperano, ma se la luce incontrano, chi li ferma più? La vita è tanta che ti spaventa, vita che ti conquista se la saggi tu. Ti provoca, ti accende, ti sbatte qua e là. Inventala, difendila, lei che siamo quel sentiero, intoniamoci al coro, leggeri quei pensieri, più rilassati noi, sorridimi, sorridimi, non ti fermare mai. Che poi ti sostengo io, sorridere per vincere è qui il segreto mio. Sorridere sempre. Sorridere sempre, la canzone di Renato Zero, bellissima, tra l'altro io adoro Renato Zero, quindi vabbè. Adesso mi voglio rivolgere a quei giovani che hanno un piccolo sogno, che chissà, potrebbero alla fine anche far realizzare in qualche modo. Sì, mi rivolgo a quelle persone che amano tanto, o comunque che sono curiosi di scoprire un po' il mondo radiofonico. Beh, adesso è possibile grazie a CRM, che organizza il secondo corso di formazione radiofonica proprio per quegli aspiranti speaker, DJ o animatori. E infatti potete partecipare voi ragazzi, aspiranti speaker, DJ, animatori, a questo corso, dove è semplice partecipare, perché bisogna mandare un curriculum a formazione@crmhappyradio.it e poi vedere se sarete scelti, perché il numero dei partecipanti è ristretto a 10 persone. 10 persone che avranno questa opportunità di conoscere un po' il mondo radiofonico, il mondo che fa parte qui di CRM. E così come ho fatto l'anno scorso, in effetti anche io. La durata del corso va dal 20 febbraio al 2012 al 24 marzo 2012. Bisogna avere soltanto il diploma di scuola superiore e poi vi sarà rilasciato un attestato di partecipazione. La partecipazione a questo corso, ricordo che è gratuita, quindi se volete, perché no, provate a farlo mandando il vostro curriculum a formazione@crmhappyradio.it. E se per caso aveste bisogno di altre info, beh, chiamate il 393 9787 111, oppure il 335 75 17 930. Bene, partecipate tanti quindi a questo secondo corso di formazione radiofonica. Noi nel frattempo continuiamo ad ascoltare tanta tanta bella musica ancora per un po', qui in diretta su CRM Happy Radio. era proprio Heart Attack degli Asteroids Galaxy Tour, bellissima canzone, il bang bang dell'attacco del cuore già dice tanto. Dice tanto qui in diretta su CRM Happy Radio, noi che ascoltiamo tanta bella musica in compagnia qui all'interno di Bella Vita. Siamo sempre in diretta ancora per qualche minuto perché poi dovrò lasciare il testimone a Robby con la sua On The Road. Ma noi per il momento ne approfittiamo ancora per ascoltare qualche altra canzoncina. Come va? Sergio Sgrilli, tutta per voi. Che vada, se nel letto non c'è più la tua mano gelata, che scemo, quanto l'ho odiata ieri, per non parlare dei tuoi poveri piedi. E allora come va, e come vuoi che vada, in giro per l'Italia, serata dopo serata. Un cucciolo di uomo senza un passato non può avere un futuro. E allora piango, rido, mi sveglio e mi addormento. Un giorno sono luce, l'altro sembra spento. Io vivo, vivo senza te, o meglio sopravvivo al dolore che c'è in me. Io vivo, vivo senza te, che strano ancora respiro, quando ho provato a smettere. Viaggio, sogno, mi soffermo un tramonto, nascondomi gli occhi e tra la gente mi confondo. Vivo, vivo senza te, o meglio sopravvivo al dolore che c'è in me. E sai, a volte rido quando penso a te, a te, al tuo sorriso, è ancora l'indelebile. E senza quello vivo, mi sveglio e sono vivo, cammino e sono vivo, e ogni volta che cado e mi rialzo e mi riscopro vivo. E senza il tuo sorriso, porta del paradiso. Come vuoi che vada? Skies are crying, I'm watching, catching teardrops in my hands. Only silence as it's ending, like we never had a chance. Do you have to make me feel like there's nothing left of me? You can take everything I have, you can break everything I am, like I'm made of glass, like I'm made of paper. Go on and try to tear me down, I will be rising from the ground, like a skyscraper, like a skyscraper. As the smoke clears, I awaken and untangle you from me. Would it make you feel better to watch me while I bleed? I'm standing on my feet. You can take everything I have. You can break everything I am. Like I'm made of glass, like I'm made of paper. And go on and try to tear me down. I will be rising from the ground like a skyscraper, like a skyscraper. Go run, run, run. I'm gonna stay right here. Watch you disappear. Break everything I am, like I'm made of glass, like I'm made of paper. Era proprio l'ultimissima canzone che potevamo ascoltare insieme, ma non niente paura perché ci ritroveremo ovviamente la prossima volta, e giovedì sempre alla stessa ora dalle 15 alle 17 circa, e ovviamente qui all'interno di Bella Vita in compagnia di Rosy in diretta su CRM Happy Radio è tutto. Vi do tantissimi saluti ricchi di tanto tanto tanto freddo, un bacio a tutti quanti, ci risentiamo giovedì. Adesso andrà in diretta Roby con On The Road. Alla